campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 22 luglio, il sole in regione sorto alle 5.37 tramonterà alle 20.50. Venerdì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Antonio Di Bartolomeo. Cambio al vertice del consorzio delle DOC del Friuli Venezia Giulia con Adriano Gigante, che spiega come tra i primi obiettivi c'è la salvaguardia dell'ambiente e soprattutto la valorizzazione dei nostri vini, che tutti i mercati classificano di altissima qualità, due fattori che garantiscono non solo immagine. Questo nel servizio di apertura di oggi, cui segue una riflessione di Cristina Micheloni sulla salvaguardia della fertilità del terreno, fattore strategico anche per il futuro dell'agricoltura. Per la rubrica dell'orto parliamo invece delle caratteristiche e qualità anche cinematografiche dei fagioli, seguiti da una scheda che parla dei mirtilli, che sono ben altro delle sole marmellate di liquorini. La rassegna delle piante tintorie arriva a quelle che ci regalano il color marrone, mentre la rubrica della gastronomia si addentra in teorie e prassi della busara, che forse non tutti sanno è una ricetta relativamente recente. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale, il proverbio friulano di Vita nei Campi chiudono la puntata. Adriano Gigante, viticoltore di Corno di Rosazzo, è il nuovo presidente del consorzio delle DOC del Friuli Venezia Giulia. Un consorzio con più mission, si dice oggi. Quello ambientale ci tiene a sottolineare forse una delle più importanti. Questo è un riflesso, diciamo, di un lavoro che stiamo facendo da anni assieme all'ERSA su tutto quello che è il concetto di lotta guidata. Abbiamo con il capo Giovanni Bigotto una squadra, secondo me, eccezionale, oggi all'avanguardia a livello nazionale, e sono convinto che questo è propedeutica, perché il fatto di avere sempre di più tanti dati di tanti anni da mettere assieme e comincia a far capire a tutti qual è il metodo e il modo per perseverare sempre di più questo grande territorio che abbiamo in Friuli Venezia Giulia. Un ambiente da difendere anche con la ricerca, sono nate anche queste viti resistenti, può essere una soluzione? Sono convinto che è uno dei primi passaggi, perché Morganti, in uno degli incontri che abbiamo fatto, lui dice che ci sono dei passaggi dove potremmo probabilmente arrivare a delle resistenze anche sulle varietà nostre proprio. Uno dei vostri cavalli di battaglia, chiamiamolo così, è quello della ribolla, un prodotto che sposa la qualità e soprattutto l'identità di un territorio. Sta diventando molto importante, è uno dei vini che hanno avuto più aumenti di vendita negli ultimi tempi, ci sono stati fatti forti impianti, stiamo lavorando alla sua difesa assieme alla Regione, abbiamo fatto incontri col Ministero, stiamo cominciando a mettere a punto una serie di accorgimenti per poterlo rendere operativo. La ribolla gialla può essere la risposta all'invasione del Prosecco, che qualcuno dice è un po' un pericolo di monocoltura viticola anche per noi? È una delle varietà che può diventare interessante in futuro, se vogliamo a livello di spumante ha certi avvicinamenti a quello che è il concetto del Prosecco, anche se secondo me ha una spanna in più, ha una marcia in più dal mio punto di vista come varietà, per cui può essere una delle varietà importanti del Friuli, senza dimenticare tutte le altre che abbiamo però. La spaventa questa invasione di Prosecco anche da noi? No, diciamo che è l'unico aspetto che ha creato un po' questo posizionamento dei produttori di uva molto diversificati, cioè oggi c'è troppa diciamo differenza di valore di chi oggi produce anche delle uve eccezionali su zone anche collinari. Il prodotto lordo vendibile può stare a 10-12 mila euro, il Prosecco va oltre 20 mila. E questo, diciamo, crea sempre delle situazioni difficili da gestire e da portare avanti. Promozione, ultima domanda. Stiamo collaborando anche lì con la Regione, con l'ERSA, e siamo partiti nel 2017 a fare questa promozione di DOC Friuli in France, dove l'intenzione comunque è quella di portare avanti sì la DOC Friuli, ma anche tutte le nove DOC che abbiamo in Friuli esistenti nella storia. Noi abbiamo le grave da una parte, per mettere due o tre forse più importanti, ma c'è il Coglio, Coglio Orientali, abbiamo una serie di zone importanti che vanno perseverate, per cui credo che la strada è quella di rimanere uniti, magari stando attenti. Vengo dall'incontro di Assoenologi a Trieste pochi giorni fa, e dove si sono presentati due mercati. C'è un mercato, diciamo, dell'on trade e dell'off trade, che sono diversi, e un'idea è quella di cominciare a operare con questa un po' differenza di posizionamento, dove non si ragiona più, perché sono abbastanza contrario al ragionamento collina e pianura, ma di posizionamento di prodotto, diciamo, rispetto a quello che uno è interessato a produrre, tenendo sempre conto di quella che è l'immagine del Friuli, che l'immagine, da tutte le ricerche fatte, è un'immagine di una terra che produce grandi vini. Questo credo che sia la base su qualunque ragionamento che noi cerchiamo di portare avanti. Mettere la testa sottoterra è il titolo che Cristina Micheloni dà al suo contributo di oggi. Sentiamo cosa ci vuol dire. Negli ultimi 3-4 anni si sente spesso parlare, anche sulle riviste femminili, sulle riviste, sui settimanali, di microbiota intestinale, che è un tema appassionante, ci piace moltissimo anche a noi biologici, perché parla di diversità e di sistemi per digerire, in questo caso, per assimilare, non per digerire, ma per assimilare gli alimenti. E la cosa che ci appassiona ancora di più è il fatto che è molto molto simile al sistema del terreno, perché anche nel terreno vivono milioni di organismi diversi, che siamo in grado di conoscere fino a un certo punto, ma soprattutto quello che capiamo fino a un certo punto sono le interazioni tra questi funghi, batteri, lombrichi, attinomiceti e altre specie. E qua sta il fascino, perché il terreno, in qualche modo, la terra in qualche modo è il capitale operativo degli agricoltori, e la fertilità del terreno è la cosa più importante che devono preservare, non solo per produrre bene in quantità e in qualità oggi, ma soprattutto per poter continuare a farlo negli anni a venire. E quindi conoscere il terreno e i suoi equilibri è fondamentale per non fare danni, e anzi per cominciare a voltare al positivo quello che il terreno può dare. Ogni anno noi come associazione facciamo una cosa che chiamiamo mettere la testa sottoterra. In buona sostanza facciamo un bel buco con una ruspa in un'azienda biologica che da anni fa magari dei sovesci, gestisce, fa delle belle rotazioni, e andiamo a vedere che cosa succede sotto, che è il miglior modo per ricordarsi poi mentre si fanno le arature o si decide di non farle magari, e mentre non si usa la chimica e si capisce anche il perché, per tenere a mente queste cose. Al di là dei successi cinematografici, i fagioli restano tra i prodotti dell'orto più interessanti da un punto di vista agronomico ma anche nutrizionale. Ci dice tutto Stefano Montello per la rubrica dell'orto. Faseolus vulgaris. In un orto fatto a regola d'arte, qualche fila di fagioli non può davvero mancare. I fagioli, come tutte le leguminose, sono piante che, più che una concimazione di base con un 15-15-15 o un velo di stallati con l'etame maturo, non richiedono durante il ciclo colturale. Questo perché sono piante che si autoalimentano, filtrando l'azoto dall'aria e attraverso la fotosintesi clorofilliana portandoselo alle radici. I fagioli sono pianta rustica ma delicata, devono essere seminati con un certo criterio, evitando di essere affondati troppo nel terreno, ma neppure troppo in superficie, il sole potrebbe seccarli ed impedirne la germinazione, e che si spaventano delle piogge battenti e troppo violente, quando la terra diventa dura come asfalto e la pianta potrebbe soffrire di asfissia radicale. Quando la pianta ha attecchito, bisogna solo sorvegliarne la crescita, facendo attenzione che la fioritura sia normale, evitando di caricare, per esempio, troppo la terra di letame. Avendo il letame una notevole percentuale di azoto e sommandosi all'azoto che normalmente la pianta filtra dall'atmosfera, potrebbe risultare fatale per la tenuta dei fiori e all'eventuale insorgere di patogeni tipo la peronospora o l'antracnosi, malattia della pianta che possono essere invalidanti ma che, per fortuna, non si propongono così spesso. I fagioli hanno una curiosa letteratura. Sono piante che mettono allegria per i colori accesi della buccia e del granello e perché muovono aria nell'intestino, con conseguenze a volte meno drammatiche, e a causa degli spaghetti western. Ogni film degli anni 70 e ogni fumetto ambientato nel Far West, penso a Tex, a Capitan Mickey o a Zagor, che si rispetti, hanno sempre proposto una colazione o una cena a base di fagioli cotti con la carne al fuoco di un bivacco laggiù, sotto il cielo del West. In Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità, e nel leggendario Anche gli angeli mangiano fagioli, Bud Spencer e Terence Hill si ingozzano di fagioli almeno una volta al giorno, visto probabilmente che altro da mangiare non ne avevano. Il fagiolo, infatti, è ricco di proteine che, aggiunte alle proteine della carne, fornivano un pasto sostanzioso a quegli uomini vigorosi e rudi della fine dell'Ottocento. Antonino Danilutto oggi ci parla dei mirtilli che conosciamo soprattutto per marmellate e liquorini, forse ne sappiamo di meno riguardo le altre virtù. In questo periodo, durante una salutare gita in montagna, non si può fare a meno di andare alla ricerca dei frutti del mirtillo nero ormai giunti a maturazione. Raccoglierli costituisce uno degli aspetti più piacevoli dell'escursione. Il nome scientifico della pianta è Vaccinium mirtillus. In friulano il nome varia da località a località: Cernicular, Chiarniciar, Glasinar e altri. Lo stesso dicasi per il frutto: Cernicule, Mortele, Uve Mauce, Chiarnice, Glasine, More di Bosch e così via. Questa ericacea cresce nelle brughiere, nei cespuglieti, nei pascoli e nei boschi, sempre su terreni montani e subalpini piuttosto acidi e preferibilmente ricchi di humus. È un piccolo arbusto alto fino a 50 cm, con rami angolosi e foglie ovali, acute e seghettate. I fiori hanno un colore da verdastro a roseo vinoso, si formano singoli all'ascella delle foglie, sono penduli e urceolati, cioè hanno la forma di un piccolo orcio ristretto all'orlo e rigonfio nel mezzo, con 4-5 dentini rivolti in fuori. Il frutto è una bacca globosa, bluastro-nerastra, ricoperta di pruina, avente un diametro di 6-10 mm. In medicina si utilizzano soprattutto i frutti secchi, che già Dioscoride, nel primo secolo d.C., consigliava contro la dissenteria. I principali componenti dei frutti sono gli antociani, i flavonoidi, i tannini e le vitamine A e C. Gli antociani si dimostrano particolarmente efficaci contro l'insufficienza venosa e la fragilità capillare. Inoltre hanno azione protettiva e cicatrizzante sulla mucosa gastrica. La medicina ufficiale riconosce le proprietà antiossidanti e astringenti dei frutti essiccati. Freschi, invece, se ingeriti in una certa quantità, sono lassativi. È dimostrato che gli antociani, associati alla vitamina A, migliorano la capacità visiva notturna, adattandola all'oscurità, specialmente al crepuscolo. A proposito, è risaputo che durante la Seconda Guerra Mondiale i piloti della RAF, la flotta aerea inglese, mangiavano preparati a base di mirtilli proprio per aumentare la vista durante le incursioni notturne. Alle foglie di mirtillo vengono attribuite proprietà ipoglicemizzanti. Per quanto riguarda l'uso alimentare, con i frutti freschi si preparano confetture, marmellate, gelatine, sciroppi, gelati e torte, ma c'è anche chi li mette in infusione nella grappa per preparare un gradevole liquore. Continua la carrellata delle piante tintorie. Oggi Ennia Visentin si addentra nel color marrone. Il marrone è il colore della terra. Quando si parla di marrone nelle tinture naturali, il primo riferimento va indubbiamente al noce. Il genere Juglans comprende all'incirca 15 specie diffuse in America, Europa e Asia. Il noce comune, Juglans regia, è originario dell'Asia Minore e della Persia, da dove venne introdotto in quasi tutta Europa. In Oriente viene usato da tempi remoti per tingere i tessuti, ma la tradizione della tintura con radici, corteccia, rami, mallo delle noci si è diffusa in tutti i paesi dove questa pianta è presente. Il noce nero, Juglans nigra, è originario degli Stati Uniti d'America e successivamente introdotto in Europa. Anche per il noce nero, il processo tintorio è finalizzato per ottenere gradazioni di colori marroni più o meno scuri e soprattutto solidi. Sulla base dell'utilizzo dei diversi mordenti, cioè fissatori, e delle diverse ricette di tintura, essi daranno luogo a un ventaglio di tonalità rosso-brunite, cannella, marroni e marron-grigiastre, testa di moro, fino ad arrivare al nero. Anche in questo caso l'intensità del colore varia a seconda della concentrazione della sostanza colorante, del tipo di fibra tessile e dal numero di immersioni effettuate nel bagno di tintura. Anche l'albicocco, Prunis armeniaca, e il pero, Pyrus communis, tingono rispettivamente un bel color cannella e noce, i tessuti e i filati di origine animale e vegetale. Si utilizza il decotto di rami giovani opportunamente tagliuzzati e lasciati macerare. Una ricetta semplice e simpatica che può essere utilizzata con i bambini è quella a base di cioccolata, bevanda calda composta da cacao e latte, dove il cacao rappresenta la materia colorante e il latte un ottimo fissativo. Provateci, sempre che siate disposti a sacrificarvi per usarla come tintura anziché come bevanda. Va sempre ricordato che le tinte ricavate dai vegetali non sono uniformi e sorde come quelle ricavate dai coloranti sintetici. Ogni colore naturale ha in sé una serie di sfumature che richiamano altri colori, anche semplicemente sulla base della luce naturale o artificiale alla quale il tessuto o la fibra tinti vengono esposti, in relazione alla stagione, al momento della giornata e alle condizioni atmosferiche. Si tratta di colori a tutti gli effetti naturali. Pare sia una ricetta relativamente recente, comunque con rimandi nella storia. Per certo ha avuto un grande successo, come ci racconta Roberto Zotar. Stiamo parlando della busara. Con l'espressione in busara o alla busara si indica un particolare metodo di cottura in umido che ben si sposa con alcuni pesci e crostacei, in particolar modo con gli scampi. Il piatto ci arriva dalle tradizioni gastronomiche della città di Fiume, dell'Istria e della Dalmazia. Nel golfo del Quarnaro gli scampi, di color rosso pallido e carapace sottile, trovano le migliori condizioni di profondità, temperatura e salinità e danno il meglio di sé con carni dolci, sapide e compatte che risultano tra le migliori del Mediterraneo. Sul significato del termine busara si è discusso senza arrivare ad una soluzione univoca. C'è chi sostiene si riferisca a una pentola usata dai marinai per cucinare, altri ipotizzano che la parola possa derivare da buzzo, cioè stomaco, mentre nel dizionario del Boerio del 1829, alla voce busara si legge buggera, trottola, bagatella, cos da nulla, e a quella di busarar, frodare, ingannare, celare il vero. Analoghe interpretazioni come svarione, bazzeccola, inganno, imbroglio sono nel dizionario di Mario Doria del 1987, che riporta però anche la dicitura modo di cucinare il pesce, soprattutto scampi e crostacei, ed afferma che in questo caso si può pensare ad un passaggio semantico dalla parola imbroglio a quella di intruglio. L'imbroglio era quello dei pescatori che utilizzavano questo delizioso sughetto per nobilitare il pescato meno pregiato. Qualunque sia la sua origine, ciò che è certo è che questa ricetta è un'esplosione di profumi da un sapore sublime. La ricetta della busara di scampi è relativamente recente e infatti non si trova nei principali testi di cucina triestina antecedenti il 1950. La sua diffusione ed assimilazione è stata però così rapida ed apprezzata da rendere questo piatto oggi caratteristico della cucina locale. In ogni famiglia c'è una busara, frutto di tradizioni tramandate. In Istria poi si usa solo aglio, in Dalmazia anche cipolla. In origine la ricetta era in bianco, poi si è evoluta con l'aggiunta di paprika dolce o di conserva, che non ha acidità e che si abbina bene allo scampo, mentre ora prevale l'uso della passata di pomodoro. Scaldate in una padella mezzo bicchiere d'olio con due spicchi d'aglio. Versate 1,5 kg di scampi e quando hanno preso colore aggiungete o conserva diluita o 2 grandi pomodori pelati a dadini. Sfumate con 2 bicchieri di vino bianco, sale e pepe. Cuocete per 15 minuti e aggiungete, se serve per addensare, 1 cucchiaio di pan grattato e infine 1 cucchiaio di prezzemolo tritato. Si abbina molto bene con gli spaghetti. Buon appetito! E ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento con spunti di ripresa venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 17,10 e 17,30 euro al quintale, IVA esclusa. Il frumento tenero buono mercantile in aumento tra 17,20 e 17,50, l'orzo tra 16,50 e 17 euro. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 10 centesimi e quello del frumento di 40 al quintale. Nel comparto zootecnico prosegue il buon andamento dei mercati dei bovini da macello, che quotano le vacche fine carriera e prima qualità peso morto tra 2,60 e 3 euro al chilo e quelli di seconda tra 2 e 2,50. scambi sostenuti con quotazioni stabili nel settore dei vitelli da ristallo. I Blubelga maschi vengono pagati tra 6,70 a 7,40 euro al chilo IVA esclusa, i pezzati rossi tra 5,50 a 6,30, i frisoni tra 1,80 a 2,30 e i bruni tra 1,70 a 2 euro al chilo. Andamenti differenziati invece nel settore suinicolo, dove i lattonzoli franco partenza di 40 kg vengono pagati a 2,40 euro al chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 1,45. Domanda sostenuta nel comparto lattiero caseario, con prezzi tendenzialmente stabili. Il montaggio fresco è quotato tra 5,10 e 5,80 euro al chilo, quello di 4-6 mesi tra 6,50 e 7 euro, con marchio di qualità tra 7,40 e 8 euro, mentre il burro confezionato viene pagato in aumento tra 7,10 e 7,40 euro al chilo IVA esclusa. Spunti di conferma per il prezzo del latte naturale di vacca franco stalla, che compresa la refrigerazione viene quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 0,3550 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Stabilità pure nel settore dei foraggi. Il fieno Mazengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,30 e 19,80 euro al quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata in cala oscilla tra 13 e 13,50 sempre IVA esclusa. Infine, cenni di ripresa sui mercati aviconicoli, con i poli a terra pagati tra 0,90 e 0,92 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,37 e 1,39, le faraone tra 2,25 e 2,29, le anatre tra 2,35 e 2,39, i conigli oltre 2 kg e mezzo quotati dal CUM di Verona tra 1,40 e 1,46 e le uova da 63 a 73 grammi a 11 centesimi e 30 il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador, l'andamento del tempo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Le prime due decadi di luglio se ne sono andate, ma il tempo non si è mai stabilizzato, se non per pochi giorni, come ad esempio mercoledì e giovedì scorsi, quando si è avuto sole tutto il giorno e temperature massime sui 33 gradi in pianura. Per il resto, quest'estate è proseguita con frequenti temporali locali, ma quasi mai diffusi. Ciò è dovuto al prevalere di alta pressione in quota, spesso però disturbata da depressioni poco definite, che sfavoriscono la prevedibilità del tempo e quindi del contributo dato dal nostro lavoro, perché tali disturbi determinano comunque il formarsi di temporali locali anche forti, dato che la temperatura e l'umidità nei bassi strati sono sempre state relativamente alte. Facendo un confronto con la climatologia, possiamo dire che la temperatura è stata leggermente superiore alla norma, mentre la frequenza dei temporali è stata leggermente superiore. La temperatura del mare continua a viaggiare un grado oltre la norma. Va detto inoltre che al momento non abbiamo avuto ondate di calore particolari come invece era successo spesso negli ultimi 15 anni. Per la settimana entrante sulla regione prevarrà l'alta pressione con correnti settentrionali secche in quota. Ciò favorirà il bel tempo con temperature massime in pianura inizialmente oltre i 30 gradi e verso fine settimana fino a 35. I temporali saranno meno frequenti e legati ai classici episodi pomeridiani o serali e in genere sulla fascia prealpina. Ci inoltriamo quindi nel cuore dell'estate con condizioni abbastanza consuete per il periodo, tanto soli, poche temporali, temperature alte ma non eccezionali. Come sempre, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che quotidianamente l'Osmer ARPA elabora e che vengono diffusi anche nei notiziari radio regionali della RAI, sul sito www.meteo.fvg, che per la fase estiva contiene anche un eventuale aggiornamento pomeridiano intorno alle 16, con una previsione a breve termine per i dettagli del tempo della serata in caso di variazioni significative prevedibili. Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. Sant'Anne e fas la son montane, a Sant'Anna il 26 luglio il proverbiale temporale, ricorrente anche a San Pietro e Sant'Ermacora. Coordinamento tecnico di Daniel Apostu, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete leggerci e riascoltarci sulla pagina Facebook Vita nei Campi. Armando Mucchino, Antonio Di Bartolomeo e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.